La strada è una gatta felina e seducente. Graffia come una troia, bacia come una principessa. Come la droga prende tutto e non ti lascia niente. Yo! Fiori del male dormono poco, parole scritte ad inchiostro a fuoco, volano sopra la sottile linea di lama di questo inchiostro rosso. Senza alcun rimorso ti sbranano addosso come un profumo al veleno, oltre ogni diktat liberi, ma schiavi di una beretta, pam pam. Via diretta alla fossa di una coca in pipetta, di ogni fottuto maledetto giorno in festa. Quanto fa male tradire col pensiero anche il cielo per sopravvivere, strafatto d'ero, giolle a veliero fino alla neuro. Noi nati nelle tenebre, i raggi di luce, le nostre condanne più vere. Allergici alle stronzate, degli epifini, pensieri si fanno fine tra bambe, mentre ballano le bimbe infernali, condannate, mortali, dalla stessa poesia sensali. Ballate coi fiori maledetti, vestite di orda sposa bianche, come la coca nei nostri nasi, nel loro clero vero fatte di 00, fumate, parse nere, le papesse oscure. La strada è un gatto felino e seducente, graffia e non ti lascia niente. La strada è un gatto felino e seducente, graffia e non ti lascia niente. Suono nero che non esce, bitch sedute sulle cosce di boss, magnum al cuore di leonesse, poi puntate alle teste, puntate 6-1 roulette russa, poi sulla tempia, mentre il mio salmo da santo, porta una croce sudario, legge corpura di ogni tortura, venere odissea di una puntura. Messe nere di suore del male, un film delle tenebre di Satana, si ode stormi di morie, di storie di glorie dimenticate o ricordate, saranno fatte nuovo sangue per le case in nubi di bamba, ghiacciata stregate. La strada è un gatto felino e seducente, graffia e non lascia niente. La strada è un gatto felino e seducente, graffia e non lascia niente. Niente. La strada è un gatto felino e seducente, graffia e non lascia niente. La strada è un gatto felino e seducente, graffia come una troia, bacia come una principessa e non ti lascia niente.